parlateli forte, picchiateli. Ma Marco Condo, che non esci mai. Come non esco mai? Io esco, però magari con altre compagnie. E c'è un carabiniere che ti faccio schiattare, me lo metto. Cinghiali. Oh, yeah. Sono belli, quelli degli altri però, perché sennò i propri sono una rogna. Qui certo gli vuoi bene, però da piccoli danno da fare, piccoli piccoli. Qui tu devi galerare, se non ti preoccupare, non è che siamo, tu una volta che sono più grandi, tornano da soli, poi ti fanno casino già 3-4 anni, 5 anni, comunque sia, se te l'hai fatto te devi tenere il bambino. Io lo sai, basta usare il preservativo e ce l'ha quello. Me li sono comprati da poco. Io non li uso la vetta, io faccio tutto a caldo. Cosa fai? Tutto? Tutto a caldo faccio. No, io meglio averli e non usarli. Che averne bisogno non averli. Mi piace dirti, ma se tu vuoi una cosa ti vuole bene, sei tranquillo, se rimani incinta, se sei contento, se ti dimentica che tutto, poi adesso è dopo 9 mesi che cominci a pentirti, perché rimani sveglio la notte, e devi andare a mangiare, devi fargli un sacco di cose, cambiare il pannolino, che poi dopo quasi un anno comincia a puzzare. No, io me ne pento subito. E non ti preoccupare, se vedo la madre di avere a te, quindi figurati tu. Un figlio mette. Anzi, la cosa più bella che ci sia, la verità. Ti soddisfano al momento, ma poi con i di cresce, non li vedi faccio di loro progressi, tutte queste cose sono pezzegole. E ma poi anche da grandi sono una preoccupazione, capito? Chissà cosa combinano, ti frequentano, poi cominciano a drogarsi. Senti chi parla lì. Ma non è così. Perché io non mi drogo mica, no? Per me non è così, ti assicuro che a me preoccupazioni non me l'hanno. Anzi, ti direi di più soddisfazioni alla grande. Capito? Una figlia che sta facendo l'università e c'ha tutto 30. Mi mancano solo 2 esami per finire. Perché le femmine sono più brave, i maschietti danno più da fare magari. No, anche Marco è bravo a scuola, c'è tutti i bevuti. Aspetta che cresca però. Ehi, vabbè, quando mettono la pancinta dice babbo, sto aspettando un figlio. Ma i figli maschi li fa. Io ho rischiato una volta. Arriva quella, e mi sono mancate le mie cose. Io no, morto ero, perché il padre mi avrebbe ammazzato di botte. Poi per fortuna invece non era quello, era la pillola che aveva ritardato il ciclo. Quante volte l'ho fatto io, grazie a Dio non è mai successo niente a me. Alleluia. Tranquilla. Quando capita, ma te lo aspetti. Ma tu sei sterile, lo credo che non ti è capitato niente. Tu è passato, che guarda, se quando lo trovo, guarda, ti tiro la bottiglia dell'abito in testa, Marco, tanto tu non lo bevi, Marco, me la bevo io, quello che rimane me lo bevo io della vita. Ehi, come l'altra volta, che stavo ondeggiando per un bicchiere di birra. E io non penso c'è niente, ti faccio ondeggiare anche dopo se vuoi. Se ne Giovanna mi se dice di andare al circo, vieni là e ci vediamo direttamente là. Vabbè. Che poi scherzandomi, potrei essere sterile io. Sapete che cos'è l'orchite? Cos'è l'orchite? dei testicoli, no? A me era venuta che avevo 8 anni, mi sono venute due palle da solo. Poi passa, però l'orchite potrebbe dare sterilità, quindi magari io sono sterile e non lo so nemmeno. Alla prova. Non c'è proprio niente, Marco, mi guarda anche due balle da solo, non c'è proprio niente, l'ortite è una cosa diversa, è proprio di orecchio, non è c'entra niente con le balle, è che cosa dicendo? Non sai quante gente, se tu vai su internet e ti guardi i filmati, sai le palle che ci sono da loro a toro, da cavallo ci sono, con pesanti il fisico mi sembra 1,5 metri, e poi sono staccato in culo perché non fai nulla. Ciao.